l'acqua del fiume scorre e segna il tempo della vita. Parigi in primavera, io la guardo con il cuore e nella Senna getto un fiore e vedendolo andar via mi lascio trasportare da un pensiero e dalla nostalgia. E sono qui, in questa piazza immensa, e guardo in su un cielo immerso in una poesia del blu. Ed una nuvola che passa non può oscurare i miei pensieri, che oggi come ieri sono rivolti a te, che oggi come ieri sono rivolti a te, sono rivolti a te. Parigi in primavera, in un tiepido mattino, un profumo della sera di un fiore sul cuscino, è un giorno come un altro che potrebbe così sembrare, ma sono qui a cercare la tua mano che non c'è. L'acqua del fiume scorre e segna il tempo della vita. L'acqua del fiume scorre e segna il tempo della vita.